Sura 65. At-Talaq. Il divorzio. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. O profeta, quando ripudiate le vostre donne, ripudiatele allo scadere del termine prescritto, e contate bene il termine. Temete Allah, vostro Signore, e non scacciatele dalle loro case, ed esse non se ne vadano a meno che non abbiano commesso una provata indecenza. Ecco i termini di Allah. Chi oltrepassa i termini di Allah danneggia se stesso. Tu non sai. Forse in questo periodo Allah farà succedere qualcosa. Quando poi siano giunte al loro termine, trattenetele convenientemente o separatevi da esse convenientemente. Richiedete la testimonianza di due dei vostri uomini retti, che testimonino davanti ad Allah. Ecco a che cosa è esortato chi crede in Allah e nell'ultimo giorno. A chi teme Allah, egli apre una via d'uscita e gli concede provvidenze da dove non ne attendeva. Allah basta a chi confida in Lui. In verità Allah realizza i suoi intenti. Allah ha stabilito una misura per ogni cosa. Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestro, il loro termine sia di 3 mesi. Lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestro. Quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso. A chi teme Allah, egli facilita i suoi intenti. Questo è l'ordine che Allah ha fatto scendere su di voi. A chi teme Allah, egli cancella i peccati e aumenta la sua ricompensa. Fatele abitare dove voi stessi abitate, secondo i vostri mezzi. Non tormentatele mettendole in ristrettezze. Se sono incinte, provvedete al loro mantenimento fino a che non abbiano partorito. Se allatteranno per voi, date loro un compenso e accordatevi tra voi convenientemente. Se andrete incontro a difficoltà, sia un'altra ad allattare per voi. L'agiato spenda della sua agiatezza. Colui che ha scarse risorse spenda di quello che Allah gli ha concesso. Allah non impone a nessuno se non in misura di ciò che egli ha concesso. Allah farà seguire al benessere e al disagio. Quante città si mostrarono orgogliose di fronte all'ordine del loro Signore e dei suoi messaggeri? Le costringemmo a un rendiconto rigoroso e le castigammo di un orribile castigo. Gustarono le conseguenze della loro condotta, e l'esito della loro condotta fu la dannazione. Allah ha preparato loro un severo castigo. Temete dunque Allah, o dotati di intelletto, voi che avete la fede. Invero Allah ha fatto scendere su di voi un monito, un messaggero che vi recita i versetti espliciti di Allah, per trarre dalle tenebre alla luce coloro che credono e compiono il bene. Chi crede in Allah e compie il bene, egli lo farà entrare nei giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarrà in perpetuo. A costui Allah ha concesso buona provvidenza. Allah è colui che ha creato 7 cieli e altrettante terre. Scende il suo ordine tra di loro affinché sappiate che in verità Allah è onnipotente e che Allah abbraccia nella sua scienza ogni cosa.